Mi sono fumato in radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. Mamma morfina, di che in sottofondo, anestetizzatevi. Radio Catrame 19, la radio inusuale. Giugno, ore 22:27, 20 minuti di ritardo, ma abbiamo il caldo come attenuante, grossissima. Io sono Strelnik, abbastanza sudicchiato, ma già molto meno rispetto ad oggi. Accanto a me c'è il sociologo, naturalmente. Cazzo lei, eccomi qua. Eccolo pronto. più a destra di Calzolai c'è naturalmente l'altra voce immancabile di Parla come scrivi, la parte femminile di Parla come scrivi. Lì. Oh mamma mia. Grazie ragazzi, è stata una settimana, devo dire, durissima. Molto dura. Molto dura, non si soffriva così da anni e anni e anni. Vi dico una cosa, ve la butto là, iniziamo a fare qualunquismo. Uh-huh. Questa settimana è stata molto peggio anche dell'estate del 2003. Se continua così, ragazzi, ci lasciamo le penne quest'anno, eh? E allora l'introduzione atmosferica ve l'abbiamo fatta. Ci saranno 28-29 gradi, ma va bene così. È la prima volta dopo 7 giorni che scendiamo sui 30 gradi, abbiamo fatto una festa, quindi abbiamo iniziato tardi per questo motivo. E sappiate che c'è un motivo per cui diciamo tutto questo, perché quando gli ascoltatori del podcast del 2050, quando sarà pieno deserto, riascolteranno questa cosa, capiranno perché eravamo dei coglioni che non riuscivamo a almeno stoppare l'alzante sempre di più temperatura del pianeta. Cioè l'abbiamo voluta? Abbiamo voluto anche un po' noi questo clima qui, o no? Allora, la temperatura in realtà è stata, questo crollo, questa impennata di temperatura è stata a causa degli anni 80, perché se gli anni 80 non avessero fatto un consumo così spasmodico di lacca e spray per i capelli, perché bisognava farsi, ricordate quel ciuffo, specialmente le donne, quella cosa che partiva a metà fronte, faceva sì, tipo onda da surf, e quindi lì ci volevano tonnellate di bottigliette spray per la lacca, che poi ti facevano anche seccare i capelli, venivano quelle pallette bianche odose. Quindi fra Madonna, che ha iniziato a fare così, e tutte le altre donne, hanno contribuito molto molto molto alla rottura di sto cazzo di buco dell'ozono, che si è rotto. E poi naturalmente, poi naturalmente ci si mettono anche naturalmente tutte le grossissime aziende che producono queste cose, le vendono, in più ne fanno anche di molto molto peggio. E noi stasera globalmente vogliamo guardare, vero? Noi vogliamo trovare i cosiddetti sicari dell'economia. E uno lo abbiamo già trovato. Chi sono i sicari dell'economia? Ecco, John Perkins era uno di loro. Lui ha lavorato per 10 anni come economista presso una società di ingegneria di Boston impegnata in progetti internazionali, cioè un impiego che alla fine dei conti l'ha messo a stretto contatto con le tante pratiche di corruzione, di raggiro, di sfruttamento che affliggono i processi di modernizzazione dei tanti paesi in via di sviluppo. E John Perkins inizia questo libro con una definizione, ecco sì, a noi ci piacciono tanto le definizioni, quella di concetto, quante ne abbiamo dette, quella di gatekeeper, certo, quella di broker sociale, quello di broker sociale ormai è un classico, sì. A noi ci piacciono queste definizioni, e il sicario dell'economia, John Perkins, che scrive questo libro, Confessioni di un sicario dell'economia, la costruzione dell'impero americano nel racconto di un insider, edito dalla Minimum Faxter, pubblicato quest'anno, il sicario dell'economia definisce il sicario dell'economia. I sicari dell'economia sono professionisti ben retribuiti che sottraggono migliaia di miliardi di dollari a diversi paesi in tutto il mondo. Riversano il denaro della Banca Mondiale, dell'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale e di altre organizzazioni umanitarie nelle casse di grandi multinazionali e nelle tasche di quel pugno di ricche famiglie che detengono il controllo delle risorse naturali del pianeta. I loro metodi comprendono il falso in bilancio, elezioni truccate, tangenti, estorsioni, sesso e omicidio. Il loro è un gioco vecchio quanto il potere, ma anche in quest'epoca di globalizzazione ha assunto nuove e terrificanti dimensioni. Lo so bene, io ero un sicario dell'economia. Allora noi salutiamo Fabio che se ne va in Colombia, eh? Se ne va in Colombia perché va a fare degli studi, delle ricerche lì e ci ha detto che da lì scriverà per noi un blog, aggiornerà per noi un blog dove ci metterà fotografie e resoconti di quello che lui andrà a studiare. Lui si occupa in particolare del tema dell'acqua, del problema dell'acqua, della gestione dell'acqua. Quindi andrà in Colombia per studiare meglio questa cosa anche là. Chissà dove andrà. In realtà va a Bogotà. E poi in una cittadina vicina. Cali, sì. Tu ne conosci una terza di città della che Colombia. Potrebbe anche visitare il nostro Fabio, che si chiama Shell. Mi sa che l'hai letto in quel libro che abbiamo letto adesso, no? Sì, lo sapevo anche io. Ma quella roba della benzina. È quella della benzina, sì. I nomi sono importanti. Una bella cittadina della Colombia, dove lo sviluppo industriale, purtroppo non era così avanzato, questi processi di modernizzazione non si erano ancora fermati, e questa cittadina dà il nome ad una delle più importanti compagnie petrolifere contemporanee, la Shell. E c'è una bellissima conchiglia. Hanno distrutto la città di Shell, quelli della Shell. Ragazzi, che una cosa tristissima. Ma poi magari lo troviamo anche il pezzo. Cioè, hanno distrutto il loro stesso nome. Sono nati intorno agli alberi, fiumi, laghi, un posto meraviglioso, ricco di colture e di tante culture, e sono arrivati quelli della Shell che hanno preso a prestito. Per molto tempo continueranno a prenderlo e pagando veramente poco questo nome, distruggendo l'origine del nome. Ragazzi, sempre segni, sempre semaggi, uno si rientra sempre in questi binari qua, ma è molto, parla come scrivi, no? È il titolo. Sì, quindi sì. Va bene soffermarci anche su come, però ci hanno messo diversi pozzettini di petrolio e guarda te, eccoti. Mi sa che la benzina la paga un po' loro. Sì. E allora, il petrolio è lo stesso, cioè, Leggevo l'altro giorno che in Toscana vogliono trapiantare, trapanare, bucare anche l'ozono, bucare le colline senesi del Chianti. Sì, perché sì. Oltre al vino c'è anche il petrolio. Esatto. La regione Toscana, aveva dato l'anima turistica, il permesso per trivellare una zona importante del cosiddetto Chianti Shire, della zona del Chianti più famosa e più turistica, così, quella che ha bellezze e quanto a compatibilità ambientale, così è di sviluppo, ecco, equilibrato dell'uomo nella natura, è una delle migliori della Toscana, no? Sì, e quindi comunque, loro una bottiglia di Brunello di Montalcino tu ci fai due tre pieni. Esatto, e vai a piedi e non in macchina. Comunque mi sembra che comunque sull'onda anche della gente che si è giustamente incazzata, la Regione Toscana ho ritirato questa delibera, o comunque ha fatto sapere che farà una delibera per non dare, diciamo così, concretezza a questa notizia anche che era venuta fuori. Ci serve poi veramente così tanto sto petrolio? Ma fa fatto. L'altra sera c'era il caro Giugiurellone là, come si chiama? Oh, mamma mia. Giugiurellone Rutelli. Rutels! The Rutels boy! Come dice Lisa, Giugiu, come lo chiama Bart? Giugiurellone. E il Giugiurellone di Rutelli che aveva. Cioè, in realtà loro, quelli lì che sono più o meno verso centro, verso sinistra, poi ne parleremo. In realtà i progetti li fanno, ma anche di sviluppo compatibile, energie alternative, poi non li sanno dire. No, infatti ci ha fatto una figura di merda a Ballarò, perché appunto, rimanendo in termini di ambiente, eccetera, sembra che ci sia stata una legge del governo che, in quanto a, diciamo così, incentivare il fotovoltaico, sembra una delle più avanzate d'Europa. Solo che Rutelli non lo sapeva spiegare in televisione, o meglio, l'ha sputtanato così Jacopo Fo, che gli ha spiegato bene e gli ha fatto vedere come con quello che aveva spiegato lui non si era capito praticamente una ceppa di cazzo. Quindi Rutelli ha detto: ah, va bene, chiameremo Jacopo Fo a fare la comunicazione. Cioè, ha ammesso la cosa, ha detto: vabbè, da dire che non facevamo niente a dire che lo diciamo male mi sembra già un passo in avanti, e questo è il sor Rutellaccio, altro che sicari dell'economia. Vabbè, dai, drink a pint of blood a day, beviti una pinta di sangue al giorno, dicono i nostri Milaven, eh? I Milaven da Bochum! Vai, ormai si conoscono, eh? Abbiamo scritto anche una mail, però non ci hanno ancora risposto, dobbiamo dire la verità. Comunque abbiamo scritto volentieri ringraziandoli della loro musica. E allora, noi sai che facciamo? Ve la alziamo un po' questa Drink a Pint of Blood a Day, e per qualche secondo, poi torniamo e torniamo a parlare di Colombia e di sicari dell'economia. Vai! I remember when I was with Special Forces. Nonostante i conflitti e le incongruità, storicamente sia Washington che Wall Street hanno considerato la Colombia un fattore essenziale nella promozione degli interessi politici e commerciali panamericani. Ciò è dovuto, oltre alla posizione geografica cruciale del paese, a vari motivi, tra cui la sensazione che i leader di tutto l'emisfero guardino a Bogotà come fonte di ispirazione e guida, e il fatto che la Colombia sia tanto la fonte di molti prodotti acquistati negli Stati Uniti, caffè, banane, tessuti, smeraldi, fiori, petrolio e cocaina, quanto un mercato per i beni e i servizi statunitensi. These men who fought with their hearts, where families and children were filled with love, that they had the strength. Poi John Perkins, questo dipendente, lavoratore dipendente, poi anche socio della Main, questa grande società di consulenza, continua. Uno dei servizi più importanti che abbiamo venduto alla Colombia verso la fine del XX secolo è stato il know-how in campo ingegneristico ed edile. La Colombia era il tipico esempio del modo in cui operavamo in tanti altri posti. Era relativamente facile dimostrare che il paese poteva contrarre ingenti debiti per poi rimborsarli con i proventi sia dei progetti stessi che delle risorse naturali del paese. Così, enormi investimenti in reti elettriche, autostrade e telecomunicazioni avrebbero aiutato la Colombia a sfruttare meglio le sue vaste risorse di gas e petrolio e i suoi territori amazzonici largamente sottosviluppati. Questi progetti, a loro volta, avrebbero prodotto il reddito necessario per saldare i debiti, più gli interessi. Questa era la teoria. La realtà, però, coerente con le nostre vere intenzioni in tutto il mondo, era quella di soggiogare Bogotà e promuovere l'impero globale. Il mio compito, come già in tante altre occasioni, era quello di perorare la causa di prestiti spropositati. La Colombia non aveva il vantaggio di un Torrius, perciò sentivo di non poter fare altro che elaborare previsioni economiche e del carico elettrico gonfiate. Gonfiate! Serio quando leggo, però quando commento questi errori mi viene un po' da ridicchiare, perché Torrios, con tutta probabilità, era il presidente del Panama. Sì, era il presidente del Panama nel 70. Infatti è rammentato poi in un'altra parte del libro, il presidente del Panama, in un bel capitolo in cui si parla del Panama e dell'importanza naturalmente del suo canale e degli interessi statunitensi che a un certo punto dovevano riconsegnare il canale ai panamensi, e lui, appunto, il protagonista John Perkins, si va a Panama per conto degli Stati Uniti a fare i suoi giochi, appunto, per conto della Main, e incontra in un bar all'hotel, mi sembra, non era il Continental perché lo stavano ristrutturando, a un altro hotel comunque grossissimo, incontra Graham Greene, il grandissimo scrittore americano che tra l'altro era un amico personale di Torrijos. Sì. E magari dopo ve ne leggiamo un pezzo, e a questo punto qui direi che dopo questo intermezzo lettorio ci vuole anche una canzone. Io direi che sì. Voi che dite? Che proponete? Anzi, facciamo che il nostro Hans stasera non decide niente, le canzoni le decidiamo tutte noi. Io voglio la canzone che canto da oggi. Cioè? Lutero. Ah, grande Lutero! Lutero, perché la canto da oggi, sono bravissimi, un po' di lingerie. Sì. Lingerie, Lutero, Sì. Hans, questa è la richiesta, poi parliamo anche un pochino di Hans in finale puntata del PubCamp. È stato con noi sabato, sì, il PubCamp. Sì. Però adesso ci sentiamo i lingerie. Com'è? Congelo sopra lo zero. Ma beh, sentitela da loro che è molto meglio. Dai. Abitano il palco con decoro. La la la la! Spiriti viventi dalle voci velutate. La la la la! Come il vermouth, il brandy, il cognac. Il bof! In quel momento preciso si spengono le luci. Si accende l'occhio di bue. E le voci del pubblico si fanno più tenue. Signori, il nostro pezzo referendario. Peroni, via! One, two, three and four. Congelo, brrr, a gradi zero. E sono fiero, sono un embrione sparviero, ma non ho pensiero. E volo tra mille esperimenti, mille cambiamenti dell'umanità. One, two, three, four. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Stammi bene, stammi male. Io sto bene all'ospedale. Vivo bene tra le fiale. Anche sotto zero, contro riforma Lutero. Scongelo, squash, sopra lo zero, sempre contro al clero. Più case, meno chiese, sono un embrione straniero, ma non vivo davvero. E nuoto tra mille esperimenti, mille cambiamenti dell'umanità. One, two, three, four. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Stammi bene, stammi male. Astenersi porta male. Sulla scheda elettorale noi votammo sì, sì, sì, sì. No. A parte lei, lingerie dicono in questa canzone fantastica che astenersi porta male. Che, allora, innanzitutto fatemi fare oggi, li amo particolarmente perché sono troppo forti, vi ho mandato una mail d'amore, siete bravissimi, riescono a condensare in 2 minuti di canzone in realtà uno stato d'animo sociale. Sì, sì, sì, sì, che sì. È questo. In maniera ironica, in sempre maniera molto ironica, in maniera molto ironica, ma chiara, cioè di questi mutamenti sociali delle staminali che non sanno con impegno impegno politico, impegno veramente grandi. Noi non siamo veramente contenti di aver conosciuto i Longeri grazie a Radio Catrame 19. E loro in fondo cosa vorrebbero? Uno stato anche, appunto, astenersi posta male, intanto, cominciamo a dirlo, ma vorrebbero anche uno stato un po' più laico, insomma. Esatto. Non ce la prendiamo con queste staminali, in fondo, sì, che sì, male sì. C'hanno loro. E esatto. Il tema della laicità dello stato, dove sta questa cosina? L'ho ritrovata oggi da un certo giornale online, non so se lo conosci, quello di Repubblica.it, non so se è quello abbastanza, qualche paginetta la fa, che ha copiato Parla come scrivi. Sì. Perché, perché noi in anteprima mondiale la scorsa settimana abbiamo lanciato il sondaggio: voi votereste per Veltroni? Radio Catrami ha fatto questa cosa, si è scatenato il putiferio, una settimana, Martino e Valentino in redazione, ma cosa avete detto? E l'avete detto voi, e lui non si voleva candidare, è uscito allo scoperto, è successo, è stata una settimana, devo dire, per le nostre segretarie, per il nostro ufficio stampa, drammatico. Drammatico. Perché abbiamo fondamentalmente chiarito a tutti quanti che Veltroni, noi un po' lo sapevamo già, da telefonata, poi c'è scappata la telefonata lì alla fine, vabbè, non... Ci hanno chiamato, eccetera, una telefonata enogastronomica. Che è successo? Dopo questa settimana dopo questa settimana sconvolgente, si è arrivati adesso lunedì al day before, domani ci sarà il V-Day. Ormai in Italia si non si dice day per tutte le cose. Esatto. Non è il birthday, no. Domani è il giorno di Veltroni. Il giorno di Valterino. Ma. Domani Walter a Torino dirà ufficialmente: Walter sì, Walter no. Sì, ma dai, Walter sì, Walter sì, non è. Walter Zitti, grande Walter Zitti. Mi fate ridere. E che dice che vuol dire? L'ha detto, ma non si aspetta altro. Ma sì, ma che dice sì? È andato già via dal comune Roma. Ha portato via tutto, pacche, ma tutto, è tutto vuoto già. E che dici, si sta già rimetti i capelli. Quanto sei andato in Africa, lui? Aveva detto andare. Io vado in Africa, sto bene così. Ha detto a Fazio un po' di tempo. Se volete andate su YouTube, lo trovate questa cosa. Ha detto: no, io proprio in Africa e non ci ho lasciato il cuore. Si vede che l'hanno rispedito, perché non ci va più. Sicché qualcuno lo rimanda, dice: guarda, ostiti, ci rimanda noi, tanto fa danni. Allora, Repubblica cosa ha fatto? Ci ha copiato e ha lanciato il sondaggio su Veltroni. Secondo voi domani nel discorso di Torino quali sono i punti, le tematiche principali su cui Veltroni si dovrebbe soffermare? E ci sono 10 scelte, che sono: andare sul rilancio della sinistra, puntare sulla... Questo sondaggio online di Repubblica ti permette di scegliere tra questi 10, sì. Ti fa un toto discorso. Un toto discorso. Di cosa dovrebbe parlare? Dovrebbe parlare di, e tu puoi scegliere 3 cose, fra il rilancio della sinistra, E la vedo dura, rilanciare la sinistra, che cazzo dici per rilanciare la sinistra? Cioè, ti vedo messo male. Vabbè, comunque... Poi te che... Comunque, se lo facesse, già lui della sinistra non gliene frega più niente. Sì, se ma come se io rilancio... Ma se gli scappasse la parola proprio sinistra una volta, tutti, oh, che dice? Non fermo! No, compagni dei ragazzi. Ma è come se io. La sinistra non c'ha più lei qua la destra, volevo dire. Ma è come se io dico: no, live rilancio la Toscana. Che cazzo è stata la Toscana? Faccio ridere. Cioè, no, comunque, andiamo avanti. È solo il primo punto. Esatto. Secondo punto, dovrebbe parlare della laicità dello Stato. E qui Longeri ci insegnano che stammi bene. Staminale, a sinistra porta, facciamo. Sì. Ma ti vedo dura, perché se inizia a parlare, già se dice laico, lui poi è di Roma, ci abita vicino a quello tedesco. Non si ha mai inizia a dire parla della città, gli succede il finimondo. Si chiude mezza Roma, gli si l'asse Roma Berlino, gli si. No, andiamo avanti. Terzo punto, porcami. Apertura ai temi cattolici. E qua, secondo me, domani ci si gioca molto il discorso. Che se lui non parla un po', non dà un input ai temi cattolici, è fottuto, perché questi stanno un po' Sì, però non parli più di sinistra, infatti le cose si escludono. Se te guardi ce n'è 5 rivolte verso il centro, destra quasi, e ce n'è altre 5 invece che portano più verso la sinistra. No, verso la sinistra, il lancio della sinistra, scusa, laicità dello Stato è una questione di sinistra. Quindi ce ne sono 5 per la sinistra e 5... E quindi cosa dovrebbe dire Veltroni? La famiglia... Esatto. No, no, i divorzi no, che poi oggi c'è scritto che... C'è un sondaggio dell'Istat che dice la gente dopo 6 anni, via, a casa, divorziano tutti. Io mi sposo nemmeno. Oh. Il problema del divorzio è eliminato fin dall'inizio. Non vi sposate e non rompete... No, scherzo, dai ragazzi, il divorzio è un diritto fondamentale. Ci mancherebbe. E sposatevi. Radio web spettatori, sposatevi. Il sociologo vi sposa, ha detto che se gli pagate il viaggio a Las Vegas, il sociologo vi può sposare. Perché cosa è fondato lì? La società dei sociologi estinti. Insomma, una setta. C'è una chapel, una cappellina lì. Oppure, ecco, se non vi sposate tra di voi, sposate me. Allora, lanciamo un sondaggio. Chi? No, ma finiamo i termini, dai. Finiamo i termini di me. No, poi ragazzi. Aspetta, se parte un sondaggio sul matrimonio, poi domani Repubblica, dai. No, no, perché noi se apriamo i sondaggi noi funzionano. Veltroni, scusaci un attimo, tanto tu stai pronta, se io non stai là. Lasciamo Veltroni un secondo da parte. Aperto il sondaggio. Chi desidera sposare il sociologo Carbonai? Può mandare una mail a calzolai, parla come scrivi su catrami19.it, ma l'oggetto deve essere della mail: io voglio sposare Calzolai trattino live, perché ovviamente la scelta la farò io. Scusami, che vuol dire? Sono l'unica donna del mondo. Ma scusa, ma si sposa lui, Sorvino? Ma che ne sa lui? Ma come sono io? Io sono l'unica donna del gruppo, ci devo mettere becco. Se non piace a me, non te la sposi. Hai capito? È chiaro. Ragazzi, questo è il matriarcato. Noi siamo oltre il femminismo. Matriarcato oltre puro. Femminismo. Qua, sì. Le donne scelgono le donne. Io sceglierò la... facciamo come Maria De Filippi. Entro settembre... Il sociologo Carbonai troverà la donna della sua vita. Okay. Posso fare un appello a quelli che leggeranno il podcast? Sì. Tra 50 anni ascolteranno il podcast. È già sposato. Per ragazzi, 50 voi anni. No, voi no. È anche morto, ragazzi. Siamo tutti morti, Allora, ragazzi, per chi ci ascolta nel 2100, mettiamoci un po' più avanti, va. Chi ci ascolta nel 2100, siamo tutti morti noi, Quelli che vi parlano adesso, se voi siete nel 2100, sono morti. Quindi, cioè, pigliatele un po' le molle ste cose lì, no? Si puzza già da parecchio tempo, Vabbè. Però questo era un bagno d'umiltà, ci voleva. Però ecco, la furbata, cioè... cioè, se l'ascoltate nel 2050, se vi piglia, davvero, ti vuole sposare un vecchiarello, magari ancora vivo. Se siete riccone. 76 anni c'ha lui nel 2050. No, non mi chiamai, mi cercherai, forse... C'ho avrò l'email. Skype. Sì, c'è lo Skype, quindi... Non ragazzi, pensate al sesso, quando c'è 76 anni, pensate che può fare quello e può fare, ora... Vuoi sapere il Viagra a che livelli gli arrivano nel 2050? Dici? No, ci saranno direttamente delle cose tipo delle pompe idro... pompe ci saranno sempre! La pompa non muore mai, ragazzi! come il pane! Come siete maliziosi! Vabbè, dai, ci rivolete un po' di maschilismo! Come siete maliziosi! Un po' di maschilismo per riequilibrare il matriarcato! Come la scegli una... Vai, dimmi! No, non lo posso dire. Era un consiglio sulla sposa. Però era volgarissimo. Avevo fatto un raccordo con quello che diceva di prima. Me la scegli una che. Sì, vabbè. Te la scegli no, una. No, che... non si può dire. Non si può capire però, che non si può capito, dire. No? È okay. Il gioco di parole con Pupi Droga. Torniamo a noi. Sì. Perché adesso vi faccio cadere tutti gli istinti maschili con il quarto punto del sondaggio di Veltroni. Sì. Veltroni domani potrebbe parlare dell'alleanza con la sinistra radicale. No, radicale? Ma radicale quale? Ci sta ancora la sinistra radicale? Infatti c'è un po'. La sinistra radicale sarebbe Verdi, Rifondazione Comunista. Nel 2100 di sta roba non c'è più niente, ve lo dico. Ma nemmeno la parola radicale c'è nel 2100. Li chiamano gli irriduscibili con questa espressione. Perché hanno detto delle cose che, cioè, sono il minimo di un governo di sinistra. Irriducibili. Li chiamano irriducibili, ragazzi. Ma però sono cattivi i giornalisti. Ma secondo me lo fanno apposta. Cioè, gli irriducibili sono quelli delle BR. Questo accettivo qua lo si usa per quello delle BR. Secondo me c'è un infatti gioco. L'accostamento è facile, sempre più. Sempre più così. Cioè, se sono delle BR più... Mussi, Ferrero, Bianchi e Pecoraro Scanio. Cioè, Fabietto Mussi. Ma ti sembra uno che ce la faccia da riducibile? È un bravo uomo, per l'amor di Dio. Biombino, ragazzi. L'ha laureato in filosofia. Quindi però dovrebbe... riducibili ora. Quindi ora, Veltroni potrebbe dire: io mi alleo con gli irriducibili della sinistra radicale. Veltroni. Ma dai! Sì. Domani c'è, dice fa no. 2 gradi, 2 gradi sotto zero domani. C'è prevista la neve. La neve, questi, anzi la neve. Birbanti di Repubblica hanno messo dopo questo punto un'altra cosa uguale e contraria. Che o ti allego la sinistra radicale oppure il punto 5 è l'apertura all'UDC. Punto 6, non sarà il punto 5. No, il punto 5 è l'apertura all'UDC. Ancora più aperti all'UDC di così. Più aperti di così all'UDC. A UDC, cioè hanno messo a UDC. Presente la posizione a UDC? A quella posizione lì. Ah sì, eh? Quella posizione lì, la posizione UDC. È quella pericolosa. Comunque, quello punto 6. Sì? Punto 6, un brivido, un vento che arriva dalla Francia. Elezione diretta del Premier. Sì, con tutto questo casino si può mettere a parlare di elezione diretta. Ma poi se ci incastra, ma pensano ai problemi siano nelle vite. No, ma lì parlerà di elezioni in diretta del Premier. Sarà... saranno tutte le telecamere, anche le webcam dentro. Sì, secondo me è più facile. La diretta televisiva. Sì. Quella è possibile. È possibile, sì. Comunque noi, cioè, leggetelo dire... Ma no, anzi, direzione diretta del Premier è ancora più personale, sembra, capito? L'americana. Non abbiamo bisogno di personalismi, anzi. Non abbiamo, dopo anni di personalismi, basta con i personalismi. No, un po' di collettività, un po' di decisioni, imprese in nome di qualcosa, di un po' di più, di un brand da difendere. Comunque, e quello dopo? Quello dopo. Punto 7, sostegno a imprese. Ancora. Risostegno alle imprese. Poi punto 8, che lui può parlare o di sostegno alle imprese oppure sostegno a ceti deboli, giovani e precari. E questo sarebbe meglio. No, questo ne parla di sicuro, dai. Sostegno proprio. No, ne parlerà sicuramente. Ma sì, perché fa sempre scena, che fa, non dice un po' ai no, ma secondo me ragazzi devono sempre ricordare. Un discorso, due o tre bischierai vanno detto. Dai. I giovani. Alleggeriscono. I giovani sono il nostro futuro, i giovani. Due o tre bischierate e leggerisco il discorso, no? Ah, ragazzi! Come quando gli scappa una bestemmia, no? Uguale. Gli scappa una bestemmia e dice: ragazzi, da domani precari niente, legge 30, si leva tutto, via. Si fa un tratti per bene, come... Siete poveri, non siete più poveri, via. Potete scegliere anche di un lavorare. Guarda, secondo me, guarda, se tocca questo punto... Si brucia. Lo brucio io se tocca questo punto. No, secondo me ci sarà un applauso eccezionale, perché gli faranno... Una Veltroni è fortissimo, ragazzi, come spara le stronzelle, non ne dice nessuno. Cioè, proprio bravo. Allora, comunque, lasciamo il beneficio no, si scherza, Walter, ci siamo lasciati. Gli ultimi due punti sono anche interessanti, va. Questa proprio la vedo. Sì. Richiamo ai valori dell'Europa e dell'Occidente. Ecco, bravo, sì. Questo. Dell'Europa e dell'Occidente non si capisce bene. Se è dell'Europa è un conto, se è dell'Occidente si intende già, almeno io intendo già un'altra cosa. No, Occidente non si può dire. Valori occidentali, poi non è che li fa l'Italia, mica fa l'Occidente. L'Occidente lo fa un altro, un po' più grosso. Quelli di prima, quelli della che erano andati in Colombia. Quelli a stelle strisce sono gli occidentali, almeno si dipingono come occidentali per eccellenza. Ma e poi che cazzo fa? Ma ti metti a fare veramente discorsi ideologici? Ma ti sembra? No. Ti sembra? No. Ma lo dice un po' dell'Europa, lo dice, secondo me. Sì, qualcosa sì. Ascolta, ma quelli hanno fatto sto sondaggio, che fanno? Li pagano anche? Sì. No, ma questo loro non sono mica, cioè non sono sociologi bravi come noi, cioè sono dei sondaggi online fatti così, pigi e vai, infatti c'è l'avvertenza perché i sondaggi online non hanno un valore statistico, ovviamente. Ultimo punto e vi dico i risultati, forte impegno sulla sicurezza. E questo lo dice di certo, la campagna elettorale dei francesi è stata tutta, cioè sinistra e destra, tutte e due. Ogni volta, alle elezioni un po' di sicurezza. C'è stato lì che ha scritto la lettera alla Repubblica sul tema della sicurezza, sì, che ha detto aiutatemi, sono di sinistra ma non voglio essere razzista. Non mi sento sicuro, non mi sento molto bene. Poi se l'ha detto un Gianni l'altra volta, il... Allora, i sondaggi, i risultati dicono che ci sono stati 162.166 voti, per cui il 27% dice che Veltroni dovrebbe... Pronto? Pronto? Mi sentite? Chi era? Pronto, non sento più niente. Ma che era? Continua, i dati del sondaggio, I dati del sondaggio ci sono, che... sì, ci sono dei problemi audio. Bravi audio, Enz, che cazzo, mi sta chiedendo? Enz, che fa? Dorme, oh! Non si sentiva! No, ma sta cazzo la spina, Enz, Scusate per i problemi tecnici. Nel 2100 non ci saranno più, ci sarà più tante osie nel 2100. Comunque, continuiamo... 27% dei votanti ha detto che Veltroni dovrebbe parlare del sostegno a ceti deboli, giovani e precari. 21% della città dello Stato. Ma sta così a cuore questa cosa, sì. Sì, lo vedi. Sono rilancio cose... della sinistra, 13%. Il 12% un punto sotto, forte impegno sulla sicurezza. Andiamo a scendere, 7% sostegno alle imprese, 6% elezione diretta del Premier, 6%, noi lo bistrattavamo invece non è poi tanto male, richiamo i valori dell'Europa e dell'Occidente. E poi andiamo sul 3%, 3 e 2, che sono alleanze con la sinistra radicale e apertura all'UDC. Cioè per i lettori di Repubblica, che solitamente non sono proprio, insomma, sono piuttosto del centro-sinistra di quella zona, per loro l'alleanza con la sinistra radicale e l'apertura all'UDC sono la stessa cosa. Beh, hanno la stessa importanza. Questo è un bel... E anche all'apertura ai temi cattolici, quindi sì, alleanza con sinistra radicale, UDC e temi cattolici fanno lo stesso effetto. Calzolare, tu come lo commenti questo dato? No, è probabilmente l'elettorato vicino, culturalmente vicino, questa cultura politica di sinistra e di centrosinistra ha scelto la prima modalità. Quella l'attenzione ai ceti deboli, sì. Quindi probabilmente se non ci fosse stata quella modalità là, la numero 8, quella che ha preso il 27%, secondo me con tutta probabilità l'alleanza con la sinistra radicale avrebbe preso molto qualcosa più. In più, sì. Però perché già diciamo che nella prima risposta è implicita un po', bisognerebbe parlare con chi vive la realtà delle case del popolo. Eh sì, bisognerebbe. Bisognerebbe. Aspetta, ma ci sa quel. Quando siamo andati a trovare quell'omino baffo, non ci aveva lasciato detto baffo. Che il suo nipote ci aveva. No, ascoltate, adesso vi sentite una canzone, ve lo meritate, dei Something Explosive, qualcosa di esplosivo. Si chiama Everything I Need, tutto quello di cui ho bisogno, e noi ci mettiamo in contatto con Baffo. Te c'avevi il nick di Skype del nipote di Baffo. Ecco, Baffino. Enz, metti sta musica. Stay up all night, this time to think. E allora ci sta chiamando con i suoi potenti mezzi, un qualcosa a metà fra Skype e un sistema. Eccolo. Ci sta chiamando, rispondiamo. Però va messo in viva. Hans va messo in viva voce con. Rispondi. Ok, Hans, mettici in viva voce. Ok. Pronto? Panini! Eccolo, ci siamo, si sente. Buonasera! Baffo! Panini, che vuoi fare? Baffo! Chi vuoi essere? Siamo quelli di Catrame 19, ci ha dato il numero suo nipote. Madonna, il bischero. Panini! Ma che gli ha dato il mio numero? Imbecille! E che vuoi volere voi? Noi si voleva fare un'intervista. Allora, prima di tutto si calmi, perché se no adesso non ti chiama più, E parli un po' più scandito, che lei è in radio in questo momento e noi volevamo fare un'intervista perché lei è un rappresentante storico dei comunisti, del Partito Comunista. Mi capisce quando dico queste cose? Panini, Partito Comunista. E da quando gli ero piccino, s'andava a portare l'unità. Sì. Di casa in casa. E abbiamo capito che è comunista, quindi ce l'ha confermato, ok? Lei è comunista perché andava a portare fin da quando era piccolo l'unità di casa in casa. Bravo, si è fatto dei memuscoli allora, eh? Beh, madonna di Dio, per quei greppi. Su che cosa non si sente? Scandisca meglio le parole. Scusi se la interrompo, scandisca meglio le parole. Si piglia per quei greppi, per quelle montagne in su e in giù. Ci trovo anche la mia moglie. Madonna, bella gli era. Chi era bella? La moglie? La mia moglie. Ecco, ma non ce ne frega niente della sua moglie. Lei ci deve parlare della sua esperienza. Non volevamo fargli un'intervista perché volevamo sapere. Lei si interessa ancora di politica. Quanti anni ha prima di tutto lei? Nini, fammi pensare. Sì, ma siamo in diretta, non ci può pensare. 81. Troppo. 81. 81. Messo, ecco, insomma. E 81, e quindi si interessa ancora di politica. Capisce di politica? Ecco. Allora io volevo... Leggeri, l'unità. Se c'è l'unità, il PC va bene. Il PC va bene? No, aspetti, no. Come il PC? Il PC non c'è più. No, aspetti. Non lo sapeva sta cosa qua. Il PC non c'è più. Il PC. Oh, bischero. Ma che sei strullo? Vabbè. Senta, volevo... Ma lei lo conosce... qui è dura, eh. È dura forte. Ma lei lo conosce Veltroni? Walter Veltroni? Veltroni? Oh, non lo conosco. Lo conosce? Fa il segretario... di PC. No, ma no, c'è il Veltroni. No, il PC. Il PD. PC non c'è più, c'è il PD ora. Ha capito? Il PC. Ma lei è sordo, no? Il PC. Non mi capisce, non capisce sto. Vabbè, pa! Ma che qua? C'ha degli strulli al telefono. No, guardi, non è uno scherzo, lei è in diretta su una radio in questo momento qui, lei è eternizzato perché lei lo sentiranno anche fra 100 anni, quindi lei a oggi, che è un vecchio elettore del PC, pensa che il PC ci sia ancora, esista ancora, mi dica sì o no. Il PC sì. Che esiste, sì, le asse del popolo e si sono fatte noi. Sì, ma non Dio buono, mi fa di cose brutte. Io un po' in chiesa, ma un bestemmio, eh. Capito? Sì, ho capito. Però il PC, glielo dico io come notizia, guarda. Non mi fa bestemmiare. No, non la voglio far bestemmiare. Senta, gli dico questa cosa per notizia, però. Il PC non c'è più, non esiste più. Ora c'è una cosa che si chiama PD. PD. Glielo dico perché sennò poi lei va al bar e la prendono in giro. Mi capisce? Mi sente? Ma... Onini, allora ora mi ricordo una cosa. Cosa? Ovetto. Occhetto. Occhetto. E fece la svolta. Sì. Sarà stato col il 71. No, nel 91. Insomma, me lo ricordavo, c'era sempre però la faccia e il martello. Dove? Ma dove era? Il simbolo. Sì. Il simbolo. Guarda, mi va via anche la voce. Sì, ma dopo... C'ho un po' la voce. Ho capito. Stasera. Senta, però... chi poi, ok? Non era il PDS. Me lo ricordo. Sì. PC, PDS. Ma ora tra il PC e il PDS. Dopo hanno fatto un'altra cosa che si chiamava DS. Poi... il PC ha preso... i DS hanno perso la S. Il PC ha perso la C, è diventato PD. Ha capito? È un gioco di lettere, poi. No, non è un gioco di lettere, è un gioco brutto, guarda. La DC se la ricorda, lei. Me la ricordo, Nini. Non mi fa smadonnare. No, non deve smadonnare, perché ora la DC è il PD. La DC e il PC sono... PD e DC sono uguali, perché DC adesso non sta per Democrazia Cristiana, ma sta per Comunisti Democratici, Democratici Comunisti, è la stessa cosa, perché voi comunisti sono diventati democratici. Ragazzi, vi devo dire una cosa, e ve la dico. Cosa? Io fo finta di essere coglione, ma mi gira di morti il cazzo. Questa cosa. Ma lei ha ragione, guardi, io mi rendo conto. Lei ha fatto il partigiano. E l'ho visti, i fascisti. L'ho visti i fascisti. Ma guardi, lei un... Ragazzi, baffo. Facciamo una cosa, baffo. Madonna, ragazzi, baffo, ma come fate, ragazzi? Il PD. Insomma, mettiamo. Maffo, gli si dedica una canzone, va bene? E voglio morire tranquillo. No. Si dedica una canzone, una bella canzone, non vada via, non la prenda a male, guardi, poi si fa altre due chiacchiere. E si dedica una bella canzone. Sono di Livorno loro sono comunisti. Io non lo so, di Livorno sono quasi tutti comunisti, penso. Comunque, sono bravi, anche se non sono comunisti, non lo so, però sono veramente bravi. Io non c'ero. No, nel 21 non c'erano nemmeno loro, però hanno fatto questa bella canzone, si chiama Popolare. Loro si chiamano Lungerie. L'ascolti, baffo! Mi accorgo che gradisco la celebrità. Talvolta mi stupisco dei saluti per la strada, sorrisi ed occhiate, mi volto di là e provo imbarazzo per la popolarità. Eppure sono popolare, ho una casa popolare, in un quartiere popolare, la mia famiglia popolare, la mia storia popolare, mio cognome popolare. Io mi sento orso polare in un mondo di zanzare. Forbici, tetra, pietra, tetra, forbici, spray, capelli, tarta, tetra, tetra, tetra, tarta, tetra. Cerco ad ogni costo uno stile originale, pratico ed imposto la mia tonalità. Per questo mi stupisco di quanto sia normale l'immagine rifletta di un soggetto popolare. Popolare, ho una casa popolare, in un quartiere popolare, la mia famiglia popolare, la mia storia popolare, mio cognome popolare. Io mi sento orso polare in un mondo di zanzare. Io mi sento orso polare in un mondo di zanzare. Popolare, popolare, popolare, popolare, popolare. Popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare, popolare. E insomma, baffo, c'è da farci un discorso con baffo. Adesso ha attaccato baffo. A me piacerebbe farci parlare anche il sociologo con Baffo, perché potrebbe... Te sei rimasto scioccato da Baffo, eh? Sei rimasto... Sì, sei rimasto un po' così, anch'io. Comunque ne riparleremo con Baffo, che lo ricordiamo si è collegato dalla Casa del Popolo di Galliano, un vecchio militante comunista a cui volevamo fare delle domande su Walter Veltroni. In questa puntata abbiamo parlato dei sicari dell'economia, di quello che può ancora far la CIA, come diceva il maestrone Guccini. Ti interrompo per una notizia dell'ultima ora, dall'ANSA ci dice che è una notizia di mezz'ora fa, che i giovani azzurri hanno manifestato in piazza l'arrivo di Silvio Berlusconi contro le droghe. Contro le droghe? Sì, contro le droghe. Perché non gliele danno abbastanza, forse? Perché la kermesse è stata fatta la vigilia del nostro Valterone Veltroni. Mm. E ha detto l'ex premier Berlusconi che questa manifestazione è stata una reazione dei nostri giovani alla politica schizofrenica di questo governo, che un giorno annuncia di voler aumentare le dosi di cannabis e il giorno dopo vuole mandare i NAS nelle scuole. Sì, ma perché sul palco, no, adesso arriva la parte comica, come sempre, sì. C'erano, oltre a persone che erano cadute nella droga, anche Lando Buzanca e Rosanna Lambertucci. Ma buoni. E deputati di Forza Italia. Da parte del governo arriva un messaggio sbagliato, quasi come se la droga non facesse male più di tanto. La droga invece rovina la vita e fa perdere la propria libertà. Queste sono dichiarazioni dell'ex premier. Mamma mia, ragazzi. Allora, noi siamo arrivati in finale di questa puntata. Come abbiamo detto, chiudiamo. Questo ci ha fatto da, diciamo così, da Luisa. Da notizia finale, da introduzione per la canzone cose finale. È il caldo che fa dire queste stronzate. Ma perché oggi ho letto sul manifesto sta cosa che volevano rivedere appunto la legge Fini-Giovanardi, perché lasciamo perdere, sapete che noi abbiamo una posizione abbastanza antiproibizionista, almeno io. Comunque, diciamo che ci ha dato la stura per la canzone finale, non sapevamo, eravamo indecisi. A questo punto qui chiudiamo con i Factotum, eh? È arrivata un po' d'aria fresca nel vagonaccio, adesso respiriamo, magari ci facciamo un giro fuori e prendiamo... ricordiamo il sondaggio. Sì, ricordiamo il sondaggio. Il sondaggio, il sondaggio è: sposerò calzolai? Esatto, e chi lo volesse fare, chi lo vuole fare può mandare un'email che trova su www.matramicianai.it. Oggetto: sposerò calzolai trattino live. Sì. Così io potrò farlo. Che è già arrivata una mail? Questa mail, sì. Ma non è una mail, vabbè, facciamo una cosa. No, vabbè, megafiga 80 chiocciolatini. Megafiga 80. No, non mi piace. È spam, è spam. No, 80 è piccolina calzolai, va bene. Comunque. Ma leggi che c'è scritto, dai. È spam. Posso leggere che c'è scritto? È spam. No, non si può leggere in diretta. Posso leggere, dai? Ah, vabbè, dai. No, vabbè, no, lo chiudi subito, dai. Chiudo? Che c'è scritto? C'è scritto nemmeno morto. Vabbè, ma è stata sincera, dai. Poi mega figa 80. Ma perché c'è stato questo sondaggio che in realtà spaventa, ma diciamo le donne non devono fare, anche gli uomini, non spaventatevi. Il sociologo, l'Istat, va bene, sì, ma non è che noi possiamo vivere sulla scia di quello che dice l'Istat, che dice che i divorzi continuano a aumentare il 74% più in 10 anni, cioè tantissimo. Ma noi non abbiamo paura dell'Istat, vero calzolato? Dobbiamo avere un rapporto sano con i numeri, non dobbiamo avere paura dei numeri, giusto? Quindi sarà stata una sfiga per gli ultimi. Si vuol dire che la gente vuole stare più insieme, cioè magari che ti posso dire? Un po' brutto. Vabbè, ci vuole bene di calzolare, secondo te? Una domanda seria. Io allora, secondo me nel sud aumenta, cioè la gente ci vuole bere di meno per questo motivo? No, è un classico, è un classicone della sociologia. Cioè prima, quando veramente non serviva una lira, il matrimonio era un sostegno economico, un autosostegno. E la famiglia era un luogo economico. Forse anche. Non avevano tutti i torti quelli che inventarono la parola economia, che deriva proprio da. Ha questo significato, cioè economia della famiglia. E allora sì, quando si era poveri si stava meglio. Chi lo sa, forse una cosa del genere avrebbe potuto dire Baffo, prendendoci in giro, perché Baffo in fondo ci ha detto delle cosette molto interessanti. Sì, però a me la cosa di essere poveri e si stava meglio non mi ha mai convinto, cioè no, stava male. Stava male, altro ragazzi, se no. Comunque, noi volevamo finire con una canzone che era i Brain Damage, che magari ve li mantiamo un'altra volta, la cosa sul appunto lo stato del pianeta che abbiamo accennato all'inizio della puntata. Però visto che c'è stata, come ci ha aggiornato Liv, questa manifestazione dei giovani di Forza Italia contro le droghe, noi mettiamo un manifesto, una canzone manifesto per noi dei Factotum, in cui suona la seconda chitarra il grandissimo Kagasonic. E la puntata numero 16 va a finire, noi vi salutiamo. Strelnik, il sociologo, il calzolai. Il calzolai e Liv vi hanno traghettato sul vagonaccio in questa puntata numero 16. Salutiamo la Ba, che è una nostra ascoltatrice e noi la stimiamo molto. Salutiamo Baffo, Giulia dalla Scozia e Maxime. Ricordiamo Maxime al volo, che ci ha ospitato sabato scorso al Camp. Anche Enz c'era. Anche Enz, è vero, non abbiamo detto di Enz. Vabbè, vi portiamo le prove di Enz. Sì, abbiamo le prove. Forse siamo riusciti a fotografare Enz, ragazzi. Enz, dai, avevi detto te, se ce la fate, ce la fate. E beh, forse ce l'abbiamo fatta. Comunque, noi mettiamo la canzone Manifesto in risposta alla manifestazione dei giovani di Forza Italia. Dicevamo che è dei Factotum e si chiama Tossici, così non ne fanno più. Buona notte. Non si va a prendere una birretta? Basta. Sì, sì. Catrame 19, la tua web radio inusuale.